Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà. Fuoco alle polverine. Go Halle Paul Berry. Radio Bomba. E buonasera, benvenuti alla 41esima puntata di Fuoco alle Polveri. Eccoci qua. Com'è? Tutto bene, come va JP? Tutto bene? Tutto a posto. Evviva. La regia, formo? Sì, formo. Dai, sì. Dai, sì. Evviva. Allora, io non mi ricordo mai il suo soprannome. Kavkav, se vuoi. Kavkav, ok. Kavkav. Glande Drago, no? Sì, Drago. Glande Drago. Vabbè. Allora, come di consueto, in ritardo. Sì. Come sempre, giusto. Ma l'avevamo. Quarto d'ora accademico. Quasi puntuale a sto giro. Sempre meno in ritardo. Lui vede il bicchiere mezzo pieno. Sì. Allora, 41 come? Cosa? Ne ho mille, ne ho trovate mille. Ero partito da un 41 bis, poi ho detto no, piglia malissimo, cambiamo il 41 bis, piglia malino, cioè. Piglia malino. Allora poi mi sono imbattuto in un pezzo della Dave Matthews Band, numero, che si intitola 41 e che dopo probabilmente la regia ci manderà. Assolutamente sì. Però ho detto no, sempre sul banale, cerchiamo qualcosa di interessante. Vediamo dove si andava a parare, abbastanza paura. No, niente di che. Sono andato a parare su un documentario che si chiama 41, che è dedicato a Bush padre, che è il 41esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Okay. Sì, c'è anche un po' di somiglianza. Figlio invece è venuto malino. Al di là di questo, entrambi cattivissimi. Questo documentario del 2012 di Geoffrey Roth un pochino affronta tutta la sua carriera, anche entrando nel... Non è cattivissimo. Cosa? Vai, non ti preoccupare, non ti fare spaventare. Vai. No, io ho sempre paura di voi perché mi accoltellate alle spalle. Vabbè, niente, questo è il 41, lo dedichiamo a Bush padre, no? Dedichiamo tutto questo a Bush. Facciamo Bush padre e 41 bis insieme. Bene. È la nostra speranza. Sì. Va bene. Auguriamo un 41 bis. Va bene, senti, ci mandate un 41 in sonoro, per favore? Per favore, grazie. Gentilmente. Si parte. Thank you. rieccoci. Quella era 41, 41, 41. Probabilmente della Dave Matthews Band. Allora, 41, questa nostra puntata, siamo qua. E che si fa oggi, caro mio Tuco? Allora, direi... facciamo diverse cose, sì, come al solito. Come al solito cose. Facciamo diverse cose. Possiamo andare avanti così. Allora, e rincorrerci la coda. Ma due volte fa abbiamo fatto doppia intervista. La volta scorsa abbiamo fatto un'altra intervista. Insomma, abbiamo ripreso le nostre magnifiche interviste. Sì. E sempre più interessanti, sempre incentrate ultimamente. Ti ascolto. Sì, sì, cioè, immaginavo. Incentrate su la scuola, l'università e il lavoro. Sono un po' il trend union. Insomma. Il nostro un po' fil rouge. Sì, è vero. L'ultima puntata. È vero, è vero, è vero. La puntata 39, infatti, potete trovare nel podcast della puntata, esatto, numero 39, l'intervista alla rete dei collettivi fiorentini che sono venuti qua a trovarci e a raccontarci un po' quello che stanno facendo. E appunto, per continuare sotto questa spinta, abbiamo conosciuto e raccattato e incontrato i diversi ragazzi degli studenti di sinistra che vi salutiamo intanto. Ciao ragazzi, benvenuti. Grazie. Ciao a tutti. E, ben quattro, ben quattro, meno male abbiamo una se panca. Non cinque, addirittura, cinque, perché c'è uno dietro le tue spalle, ragione, che poi non puoi vedere perché sei concentrato, giustamente. Chiedo, scusa. Retroguardia. E quindi abbiamo invitati per chiacchierare un po' di quello che è, abbiamo parlato appunto del mondo della scuola e delle mobilitazioni che ci stanno intorno al mondo della scuola, e volevamo sapere un po' cosa si muove all'università, visto che ormai stiamo invecchiando malamente, quindi il naso ce lo mettiamo sempre meno, e, però loro invece ci stanno, se la vivono, e volevamo un po' appunto sapere. Iniziamo intanto, chiedendo chi siete? Chi diavolo la domanda siete? Magica. Questa è la grande domanda. Innanzitutto vi ringraziamo, ecco, per averci invitato qua, e salutiamo tutti i radioascoltatori. Bravo. Ci auguriamo essere numerosissimi. E chi siamo? Innanzitutto oggi saremo più persone, ecco, speriamo di essere abbastanza rappresentativi della realtà di studenti di sinistra, perché siamo ragazzi un po' che vengono da varie scuole della nostra università. Su chi siamo? Allora, studenti di sinistra è il collettivo d'ateneo, o almeno questa è la definizione a cui siamo giunti dopo grandi discussioni, poi dopo spiegheremo meglio che cosa si intende e tutto. Quindi ci occupiamo di questioni d'ateneo, ovviamente come tutti i collettivi il nostro obiettivo è quello di discutere, di affrontare temi politici, ma appunto nel nostro caso con particolare riguardo verso l'ambito universitario. Siamo una realtà indipendente, e su questa definizione di indipendenza noi crediamo molto. Indipendenza per noi appunto vuol dire non essere legati a nessun partito, a nessun sindacato, a nessuna associazione, sia da un punto di vista economico, sia anche da un punto di vista di legame poi politico. Questo non vuol dire che noi non riconosciamo certe associazioni, partiti o sindacati che esistono fuori all'università, ma che non per forza noi dobbiamo agganciarci a questa, certo, realtà per vivere e per fare quello che facciamo quotidianamente. Come altri invece collettivi universitari fanno. Esattamente, non o altre facciamo, realtà. Non ne faremo i nomi, ma... Esatto, sì, ci sono altre realtà che ovviamente non si definiscono collettivi per ovvie, okay, ragioni, ma che non, perché non sono lo sono ovviamente, ma sì, che si sono legati in vario modo, in maniera anche un po' subdola a volte, questo bisogna dirlo. Diciamo, a altre realtà. E come cos'altro possiamo dire? Innanzitutto, ecco, la nostra comunque sia è una realtà eterogenea e aperta, nel senso che le nostre riunioni, quelle che noi facciamo settimanalmente, sono riunioni aperte a tutti. E per questo anche un po' il nome, i nostri studenti di sinistra, perché come è nato? È nato proprio perché la volontà è quella di poter essere un grande contenitore, al di là di tutto, per una realtà che comunque si riconosce in certi principi e in certi valori. Ovviamente appunto noi portiamo avanti sempre iniziative che si riconoscono nei valori di antifascismo, di lotta alla disuguaglianza e anche delle varie politiche definibili come neoliberiste che hanno attaccato soprattutto l'università. Sì, sì, in generale, il mondo della formazione. Il mondo della formazione in generale, esattamente. E quello che facciamo quindi è cercare, diciamo, nelle nostre riunioni settimanali, affrontiamo appunto, come abbiamo detto, temi di politica, di, diciamo, a vari livelli, da politica locale alla politica nazionale. Cerchiamo, sulla base di queste riflessioni e di queste sintesi che facciamo, di proporre anche delle iniziative, che sono iniziative di vario tipo, dalle conferenze alle assemblee. Facciamo anche iniziative ludiche, insomma, forse qualcuno di voi avrà partecipato a iniziative tipo Sballowin, che hanno questa finalità qua, ecco, anche semplicemente di stare all'interno di un luogo universitario, viverlo in un contesto diverso da quello della lezione, certo, canonica accademica. No. Questione anche di socialità, di esattamente, di creare spazi, questo è di... quello della socialità e dello spazio di aggregazione è sicuramente uno dei temi che più ci tocca e che poi magari vedremo di affrontare un po' più, sì, nel dettaglio. Sì. Forse una cosa fondamentale che a me piace sempre sottolineare, che è legata all'indipendenza, è l'orizzontalità, nel senso, come collettivo le decisioni che prendiamo vengono sempre fuori da una sintesi, quindi da una discussione fra pari, non ci sono gerarchie, non ci sono gradi, non ci sono relazioni se non quelle personali, e quindi l'energia che uno ci vuole mettere. Per questo un po' come collettivo l'immagine per me più bella è quella del catalizzatore, cioè deve essere un catalizzatore di energie, di interventi, possibilità, creatività, no? di tutte le persone che ruotano intorno all'università, che sono interessate a lasciare un segno positivo, a lasciare un segno costruttivo, a far andare l'università in una direzione legata a quei valori di cui parlavamo prima, che sono di maggiore uguaglianza, appunto, okay, possibilità per tutti di studiare appunto questo tipo di direzione. Ottimo. Sono emerse, immagino, e se ne parlava anche prima, delle macro questioni, dei temi principali su cui avete deciso di lavorare quest'anno? Penso di sì. E se sì, quali sono? Se vi va di parlarne un po', insomma, illustrarci. Tanto ciao. Sì, quest'anno diciamo che la direzione che stiamo cercando di dare a studenti di sinistra sempre di più è quella della collaborazione fra le varie realtà, e quindi proprio per creare e permettere agli studenti di non sentirsi appunto studenti di un corso di studi ma studenti dell'università, dell'Unifi, abbiamo cercato di trovare anche un substrato comune di lavoro, perché spesso le campagne che portiamo avanti come collettivo riguardano tutto l'Ateneo più di quanto non si pensi, e quindi in questa ottica stiamo cercando di lavorare sempre di più appunto come assemblea di Ateneo. E fra queste tematiche quest'anno stiamo puntando molto sulla questione degli spazi universitari, perché è una tematica, lasciatemi usare questo gioco, però fisica, è tangibile, è facile lavorare su ciò che c'è, esiste, ed è possibile intervenire direttamente. Quindi adesso poi lascerò la parola a Pietro per la questione degli spazi, per entrare nel merito un po' della questione. Quello di cui poi vorremmo lavorare, su cui vorremmo lavorare come assemblea, è la questione dei tirocini, che anche questa, io sono studentessa di medicina, lo posso dire, e quindi abbiamo le nostre problematiche relative ai tirocini, ma non esiste facoltà che non abbia delle problematiche e che non rischi sempre di trasformare il tirocinio in sfruttamento e o dall'altra parte di togliere la possibilità di tentare una professionalizzazione vera degli studenti. Quindi diciamo che il rischio è da entrambi i lati con i tirocini. E l'altra questione su cui sicuramente ci concentreremo quest'anno e che ci tocca è quella del numero chiuso, perché sta all'interno della nostra idea di università e ci muoviamo in quella direzione come studenti di sinistra, la apertura totale dell'università, okay, e la possibilità per tutti gli studenti di qualunque tipo di liceo, qualunque tipo di scuola da cui derivino, di accedere alla possibilità di fare l'università e di accedervi liberamente. E anche questo cercheremo di applicarlo sull'Ateneo, perché anche qui, studente di medicina, io conosco un numero chiuso che ha delle problematiche differenti rispetto a tutti gli altri, sì, e gli scienziati ne hanno alcuni, ma e ora se ne parla anche per i letterati, cosa che, certo, insomma, un tempo non era neanche possibile pensare. Tra l'altro mi viene in mente subito di, cioè, il collegamento in realtà con i discorsi che facevamo ai ragazzi dei collettivi delle scuole superiori su tanti di questi argomenti, cioè praticamente su tutti, l'avete già citati tutti, anche i loro campi di intervento, nel senso che quello degli spazi è un voi parlate di spazi universitari, loro parlavano degli spazi all'interno delle scuole, avete parlato di antifascismo e loro parlavano come uno dei temi principali della loro attività di quest'anno dell'antifascismo. Il numero chiuso sarebbe, a mio parere, una grande conquista, riuscire a portarla da essere una battaglia universitaria a farla diventare una battaglia comune, perché poi in realtà tu, per esempio, fai medicina, il test l'hai passato, sei dentro e te va bene. Ci saranno tante altre persone che non saranno prontissime a lottare per abolire un numero chiuso o abolire comunque una posizione che hanno già, certo. Mentre gli studenti delle superiori hanno tutto da conquistare sotto questo punto di vista, quindi è un discorso che si può fare su tutte e due i fronti. Poi quello dei tirocini, che su cui voi lavorerete e assomiglia molto a quello che è stato introdotto con la legge della buona scuola sull'alternanza scuola-lavoro, e quindi che è il tema principale su cui poi stanno lavorando i collettivi delle superiori, quindi sembrano già tutti temi che sono già in comune. E infatti il svolto positivo, penso, dell'assemblea che abbiamo lanciato come studenti di sinistra per questa sera e che rilanceremo e abbiamo già rilanciato per tutti i primi lunedì del mese, è stata anche quella forza di stasera, sarà anche la presenza dei collettivi, della rete dei collettivi medi, e sarà un buon punto di partenza, un buon punto di scambio, perché, come dico sempre, lavori sullo studente universitario ancora prima che sia studente universitario, esatto. Quindi hai molta più possibilità, esatto, di fare qualcosa di buono. E quindi vogliamo dire qualcosa sull'assemblea? Sì, diciamolo già, poi lo ripeteremo un'altra quindicina di volte. Cioè, allora, la necessità rispetto all'assemblea è quella che, per spiegare un pochino la situazione rispetto ai collettivi e studenti di sinistra. Studenti di sinistra è un collettivo indipendente, così come tutti i collettivi dei vari luoghi, che possono essere Arcostruendo, Laboratorio 15, il collettivo di medicina Codice Rosso, Rosso Malpolo a Novoli, quindi ognuno ha una sua identità, caratteristiche principali, lavora sugli spazi, chiaramente ognuno sapendo con precisione quali sono i problemi degli spazi e quali sono i problemi del loro corso di studi, della loro scuola, dei loro spazi e della loro università in qualche modo. L'idea dell'assemblea nasce proprio per riuscire a riunire queste conoscenze e queste capacità anche di trasformazione, queste possibilità di trasformazione sotto in un unico momento per condividere e riallacciare anche una relazione personale che in qualche modo è sempre difficile da mantenere, perché studenti di sinistra, le persone che sono studenti di sinistra fanno parte anche dei collettivi, però non tutti i collettivanti partecipano a studenti di sinistra, quindi l'idea è quella di allargare il più possibile la base per ricreare questa relazione personale che è necessaria per lavorare insieme come collettivi, tutti insieme, su delle campagne importanti. Per questo abbiamo fatto due riunioni già nei mesi scorsi, che sono state un po' poco partecipate, ma questa nuova di stasera, speriamo che invece abbiamo già un pochino di numeri, speriamo che ci siano tutti, è proprio stata cercato di allargare il più possibile, proprio per avere il più possibile la rappresentazione di tutte le realtà interessate, okay, all'università. Ok. È anche nata come un'idea che è venuta fuori dai collettivanti stessi, dei luoghi, insomma, anche semplicemente per voler vedere le facce degli altri collettivanti, banalmente anche per questo ci siamo ritrovati in delle situazioni in cui c'era qualcuno che faceva collettivo magari da 3-4 anni a collettivo di scienze come me e ancora non aveva mai visto i collettivanti di medicina, e questo era un po' un assurdo, insomma è giusto, secondo me questo abbiamo fatto bene, parlare di autonomia tra i vari collettivi e non creare una gerarchia tra studenti di sinistra e collettivi di luogo, però è necessario anche trovare un momento di condivisione delle esperienze, okay, anche certo, per essere, diciamo, più creare anche un certo entusiasmo, ecco, far capire che non siamo soli, che ci sono tante realtà che collaborano come i singoli collettivi di luogo. Una domanda, ma questa vostra azione secondo voi deriva da il fatto che i collettivi universitari negli ultimi anni sono un po' andati a perdere di forze di efficacia, o è un'evoluzione a quello che erano? Allora, di sicuro vediamo che c'è una componente nella nostra generazione che è molto distaccata dalla partecipazione della città politica pubblica, e quindi ci troviamo in un grosso, diciamo, stato di emergenza, no? Da quel punto di vista, perché vediamo che le nuove generazioni che entrano all'università sono ogni volta più distaccate da quell'interesse comune, e quindi da riflettere, da domandarsi, da mettersi in dubbio, no? Per cui è vero, noi abbiamo deciso di portare avanti queste tre campagne, però l'obiettivo primo, diciamo, più in alto di queste tre campagne, per l'appunto la ricomposizione di questo tessuto sociale, non solo studentesco, perché certo, vogliamo per l'appunto fare attraverso queste, cioè, il lavoro collettivo e queste campagne, ricreare quel tessuto sociale che è composto da studenti del liceo, universitari e anche dalla fascia operaia. Quindi importantissima questa questione, vedremo cosa possiamo riuscire ad avere con la campagna che porteremo avanti in quest'anno, però più che avere una vittoria, speriamo per l'appunto cimentare questo tessuto che è importantissimo e alla base di tutti i cambiamenti una volta, cioè secondo noi, no? Poi vedremo cosa succede fra un anno, fra due, è tutto un percorso, però l'importante in questo momento è quello, riamalgamare tutta quella fascia che è stata dispersa in questi ultimi 20 anni, allontanata dall'opinione pubblica, allontanata attraverso dei percorsi proprio statali del governo e dei mezzi di comunicazione. Cioè è una lotta sicuramente difficile, però per l'appunto facciamo queste campagne, proprio, diciamo, l'obiettivo più sottile e al basso fondo è quello del lavoro collettivo, quindi di conoscerci, di ricreare legami, di guardarci in faccia, di creare, cioè di volerci bene, perché alla fine l'individualità purtroppo cioè, ci ha sopraffatto in questo momento, no? Assolutamente d'accordo. Sì, anche molto d'accordo. E tra l'altro per questo coordinamento, quindi per questa assemblea di studenti di sinistra, avete detto, non c'è appuntamento, diciamo, quindi dov'è l'appuntamento, quando è, e poi facciamo, cioè, è stasera, giusto? Sì, è tutti i lunedì, i primi lunedì del mese al Barriera. Ok. Ore? Ore 19:30. Bella. 31. Attenzione. Cum cena sociale? Cena sociale. Diciamo che il programma è di mangiare tutti insieme, la struttura classica è ognuno porta qualcosa. Ok. Cena condivisa. Alle 21 cena condivisa. Idee condivise, cena condivisa. Giusto. È un modo che abbiamo visto anche come singoli collettivanti e come gruppi proprio di persone di strutturare un dialogo, una relazione molto informale che dovrebbe funzionare. Condividere il cibo è sempre un momento, sì, importante. Sì, funziona. Ma che mondo è mondo? E tra l'altro penso anche che la scelta di andare in polveriera fosse, cioè, nel senso sia buona, nel senso che è un luogo che è nato proprio per cui, cioè, per uno dei temi che avete trattato, e che è quella questione degli spazi all'interno dell'università, nel senso che anni fa, quando c'era già una campagna di studenti di sinistra e di altri collettivi sulla questione degli spazi all'interno dell'università, fu occupata la polveriera, che è appunto questo spazio nel chiesa di Santa Apollonia accanto alla mensa universitaria, e proprio per cercare di portare un nuovo spazio di condivisione e socialità e anche studio per gli studenti universitari in centro a Firenze, spazi che sempre mancano, perché sempre meno ce ne sono, sempre più chiusure hanno. Anni fa nacque quell'esperienza lì che porta avanti, anche se non più soltanto, non è più soltanto legata al diritto allo studio, ma anche a una forma di socialità che si vuole allargare a tutta la città. Però la scelta di questo logo qui penso che sia anche azzeccata, perché la polveriera è nata per dare risposta a questo tipo di esigenze. Quindi, sì, sì, assolutamente d'accordo. Infatti la scelta è stata proprio ad hoc, cercando anche di ricreare l'appartenenza agli spazi già presenti, ecco, al di là di andare sempre. Ok, assolutamente. E, no, poi pensavo anche che è comunque un rapporto biunivoco, perché avete uno spazio in centro dove potete stare tranquilli e fare questa azione che è fondamentale, vi appoggiamo assolutamente. Dall'altra fa bene anche allo spazio stesso della polveriera avere degli studenti che vengono e vivono il posto e magari aiutano a contrastare poi le parti negative di stare nel centro e nel quartiere di San Lorenzo, che insomma sappiamo un po' com'è, ecco, no? Assolutamente, assolutamente. Non è vero, è vero, è vero, confermo. E che diciamo? Altra cosa positiva mi sembra che possa essere, da quanto ho capito, che il fatto di anche uscire, provare a uscire dalle mura dell'università, nel senso che non per forza un collettivo universitario, anzi, secondo me se fa questo rischia di perdere in partenza, può occuparsi soltanto delle vertenze all'interno della propria facoltà, quindi o anche del proprio ateneo, nel senso che parlare di questioni generali e comunque tentare di allargare il discorso e lo sguardo al di fuori di quelle che sono appunto le mura universitarie, e soltanto anche fare un'assemblea, una riunione al di fuori delle mura universitarie, secondo me è già sintomo di questa volontà. Questo. Io a riguardo volevo anche dire una cosa fondamentale, che è un po' la questione su cui casca un po' l'asino e su cui veniamo, cioè, che ci caratterizza sicuramente molto, ed è il lavoro nelle istituzioni, cioè che studenti di sinistra lavora a livello di commissioni di Ateneo, a livello di Senato Accademico, di CDA, di ARSU, di tutto quello che sono gli organi politici e non anche organizzativi dell'università. E io lo ridico e lo rivendico, perché ovviamente questo processo ha portato i collettivi di luogo tanto ad allontanarsi un po' dalla relazione con la persona, perché essere chiamati a lavorare all'interno dell'università, a parlare con i professori, a cercare di rappresentare effettivamente la voce studentesca all'interno dell'università è un lavoro a tempo pieno. Se lo vuoi fare bene gli devi dedicare molto tempo, quindi ci eravamo molto chiusi sul nostro lavoro all'interno degli organi, fondamentale per noi, perché se in Senato si parla di tasse, io voglio essere lì e poter dire no, questa tassa non va bene, questa fascia non va bene, e avere effettivamente la possibilità di dire la mia dove si va a decidere. E questo ci ha, secondo me, portati però un po' alla chiusura, e io per esempio sono entrata in collettivo di medicina e mi sono chiesta qual era il ruolo che volevo avesse il mio collettivo. Al di là di migliorare la mia università, volevo che fosse una finestra su quello che c'è di tutto oltre che dell'università, e da qui secondo me nasce l'esigenza del progetto di assemblea di coordinamento dei collettivi, perché proprio è stata un'esigenza nostra, perché parlare sempre di organizzazione, di organizzativo, di esami, di appelli, di una rottura di scatole, posso dire tutto quello. Una rottura di coglioni indefinibile, e invece questo speriamo sia di nuovo la vena politica, la parte di discussione, lo spazio delle idee effettivamente, con tutti insieme. Infatti la nostra compagna medica ha toccato un punto molto interessante. E cosa vuol dire? Vuol dire che accanto a questa, diciamo, a questa lotta istituzionale, per quello che ho capito nelle ultime assemblee di coordinamento dei collettivi universitari, vogliamo ampliare questa lotta anche nella lotta di piazza. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire non rimanere soltanto rinchiusi per l'appunto nelle mura dell'istituzionalità, ma uscire anche, uscire e mobilitarci, mobilitarci nelle strade, nelle piazze, con gli studenti dei licei, e insomma con questa cioè cercare di creare questa massa critica di cui abbiamo bisogno ed è base per portare avanti questi cambiamenti. Una cosa che io voglio sottolineare legata all'istituzione, alla rappresentanza, è chiaro che sia fondamentale che i collettivi, cioè che noi usiamo la rappresentanza come è, in maniera strumentale, nel senso siamo negli organi perché abbiamo un'idea di università che dobbiamo difendere e il modo è essere presenti negli organi. Però io questa cosa la voglio sottolineare in maniera specifica, perché la distanza dalle istituzioni non può che indebolirci, cioè il momento attuale è un momento di crisi, no? Della democrazia, degli strumenti partecipativi, della rappresentanza, che tutti questi ruoli sono fondamentali proprio come difesa di quei valori all'interno degli organi che effettivamente decidono. Quindi questo anche energia che c'è legata ai collettivi, secondo me ha bisogno di essere catalizzata sul tema della rappresentanza e della democrazia, perché se noi qui siamo in questo momento a parlare di queste cose è anche grazie alla possibilità di essere rappresentati e di dire la propria in un contesto istituzionale che prende delle decisioni, che ha un peso. E in questo momento noi adesso siamo in crisi rispetto a questi temi, perché le nuove generazioni non hanno questa diciamo istruzione civica, no? Questa educazione civica legata al funzionamento dello Stato, degli organi istituzionali, e si perde, no? E quindi ci troviamo anche più deboli su tante cose, perché dove manchiamo noi ci sono gli altri, e gli altri non hanno interesse di valori, cioè è un po' difficile, un po' aggressiva da dire, però no, assolutamente chiara qual è il vostro modo di agire, insomma, con questa ultima specificazione. Chiaramente non è l'unico modo di andare a incidere, ma è sicuramente uno di quelli più pregnanti. Però mi sorge una domanda che è proprio mia, nel senso, giustamente voi fate questo discorso, però io ricordo bene che, insomma, sono uscito veramente da 2 secondi dall'università, che la partecipazione alle votazioni, quindi la democrazia pratica all'interno dell'università, è scarsissima. Allora, dov'è che voi, cioè come vi relazionate con questa cosa? Perché la rappresentanza viene un po' meno. Allora, vai, prego, ti vedo pronta. Sì. Purtroppo ultimamente diciamo che lo studente medio non conosce neanche, sa la presenza che ci sono organi all'interno delle scuole e dell'università. Okay. In quello studente, cioè lo studente prima non conosce questi organi e non sa che ci sono posti in cui, cioè, in cui è lo studente stesso che sceglie e che decide su determinati regolamenti che sono proprio la scaletta di come funziona l'università e come funziona l'ateneo. Quindi questa anche disinformazione dovuta a una mancanza forse anche nostra da una parte di informare lo studente della presenza di questi organi, di questa possibilità che c'è di essere portavoce dello studente, delle necessità dello studente all'interno e di avere grande importanza in questi organi, è molto bassa come informazione, non si sa, non se ne conosce molto. Però questo è sempre legato, secondo me, un po' al fatto di un po' del periodo storico in cui ci ritroviamo, in cui lo studente medio, diciamo, l'unico interesse dei studenti per ora è conseguire l'università e finirla entro i 3 anni o 5 anni o 6 anni, quelli che sono esatti, e non diciamo allargare un po' le prospettive che possono esserci in questa formazione, in questo percorso. Questo penso anche sia un po'. Vuoi? Prego, Carlo. Sì, scusa, volevo soltanto aggiungere una questione nel percorso istituzionale, che sì, che è comunque valido. A me mi viene in mente fare un paragone con la politica italiana negli ultimi, cioè dopo gli anni 60-70. prima c'è stata una componente di sinistra istituzionale nella politica italiana molto radicale, che ha avuto tante vincite in campo sociale, in campo di sanità, in campo di istruzione. Bene, noi pensiamo che bisogna tornare a questo, se vogliamo, cioè studenti di sinistra, prendiamo la lotta istituzionale come di sicuro un punto importantissimo, però portarla con idee precise, quindi cercare di, insomma, quello che dicevamo prima sulla cosa strumentale, cioè che, esatto, deve essere uno strumento per dei valori forti, anche radicali. Radicali, anche... esatto. Detto in poche parole, così, nel senso, andare lì in Ateneo, richiedere ciò che vogliamo avere e se no agire. Esatto, anche perché ora l'avete già detto, non stiamo nemmeno a ripetere che è strumentale la lotta all'interno del... all'interno delle istituzioni universitarie che hanno sì, cioè vengono discussi i regolamenti delle varie facoltà, delle varie scuole, come cazzo si chiamano adesso, e vero è che vengono applicati dei regolamenti, delle leggi che vengono sono frutto di un percorso politico, quello che diceva l'altro compagno, che arriva da 20-30 anni di riforme universitarie che portano l'università verso una direzione ben precisa, quello che si diceva prima, e quindi ovviamente la lotta all'interno delle istituzioni, soprattutto appunto dell'Ateneo Fiorentino, piuttosto che della facoltà di medicina, piuttosto che un'altra, non penso che possano essere e saranno mai sufficienti, e penso che la lotta, cioè il concentramento su questo tipo di battaglia sia stato anche, appunto come dicevi tu prima, uno dei motivi per cui i collettivi universitari hanno perso realmente tanto negli ultimi tempi, perché non può essere almeno io penso non possa essere una lotta sufficiente quella lì, perché alla fine poi, oltre ad essere una gran rottura di palle, è anche, penso, abbia pochi margini, che si debba, se non, diciamo, per i regolamenti e le questioni delle, che poi anche forse che spediscono più direttamente gli studenti all'interno della facoltà. Quindi io sono convinto anche che sia necessario portare avanti una rappresentanza o comunque portare la vostra voce all'interno delle istituzioni universitarie. Come avete già detto, non può essere sufficiente. Forse è fondamentale sottolineare che come sempre con questo tipo di ricerca, uno pensa globale, però poi deve agire sul luogo, no? E a scala sempre incredibilmente minuta, nel senso che ogni nostra vittoria nelle istituzioni, nei consigli, è un rallentare questo processo. È chiaro che il processo non si può invertire dalla scuola, ma deve farlo dal ministero, però la resistenza che facciamo è fondamentale, altrimenti saremo già in campi, in acque molto più profondi, molto più, quindi sottolineare la necessità di mantenere vivo questo rapporto con le istituzioni, anche perché è proprio una questione legata all'educazione, cioè manca l'educazione alla democrazia, no? Che è il problema che vediamo anche con le nuove generazioni. Forse manca anche un po' l'educazione al dissenso, mi viene da dire, nel senso che anche magari il lavoro che fate può essere utile per portare a persone che ormai in realtà sono grandicelle, ma infatti che iniziano anche ben prima dell'università a fare politica, però un'arma che è quella del, cioè, vivere una cosa e capirne quali sono le contraddizioni, perché il mondo universitario, come il mondo della scuola, ma poi vabbè, ovviamente il mondo del lavoro ancora di più, ne sono veramente piene. Esatto, e più fronti apriamo, cioè da più fronti lottiamo, di sicuro è molto meglio, sia dal punto di vista istituzionale sia dal punto di vista extra istituzionale. Insomma, vogliamo amalgamare tutto questo, portare avanti gli obiettivi in tutte queste vie. Esatto, infatti mi piace, sono molto contento di questa apertura su più fronti. Secondo me è un po' la novità che serviva anche forse nell'ambito universitario di questa città. La speranza è che non si finisca dividendoci le energie, ma che anzi questa qui sia l'occasione per un coinvolgimento maggiore, appunto per anche dar fuoco a un entusiasmo che comunque potrebbe scaturire, ecco, all'interno dei collettivi. Un fuoco alle polveri. Un fuoco alle polveri. Per l'appunto. rilanciamo allora quindi l'appuntamento di stasera 19.31 19.31 in Polveriera, come ogni primo lunedì del mese, il coordinamento del studente di sinistra. Cioè, per capirci, il prossimo è il 4 dicembre. Il coordinamento. Bravo. C'è scritto. Ok. E lo ridiremo quando sarà, certo, saremo a ridosso nella nostra rassegna settimanale degli eventi. Avete qualche altro evento da lanciare o da... Sicuramente Le iniziative sono comunque tante, sempre tantissime. Allora, sicuramente c'è Pizze, quindi il cinema gratuito per gli studenti, all'Alfieri ogni martedì di questo mese e lunedì di dicembre. Due film a serata, e insomma partecipate, perché forse non l'abbiamo detto con precisione adesso, però la campagna sugli spazi è fondamentale perché è il simbolo della realtà fisica di quello che succede all'università. Cioè, l'università in questo momento non è un luogo culturale, di incontro, di scambio, ma è sempre di più ha sempre di più una formazione professionalizzante e cerca sempre di più di andare nella direzione di andare all'università a fare l'esame e tornare a casa. Questa logica chiaramente distrugge qualunque dei nostri tentativi di dare di più, no? Perché se tu vai all'università per fare gli esami e quando hai finito l'esame torni a casa e ti interessa solo del tuo voto, a parte avere i problemi legati allo stress e alla psicologia e sicuramente al significato della tua vita, io credo che questo dia grandi problemi legati a questo tipo di cose. L'altro problema è che vivi gli spazi in maniera debole. Debole perché gli spazi hanno bisogno di essere vissuti in maniera profonda, continua, partecipativa, devono essere inclusivi, nel senso che gli spazi devono far accedere le persone ai luoghi e farli partecipare, devono invogliare a farli partecipare. Quindi quello delle nostre iniziative legate agli spazi è proprio questa necessità di portare dentro l'università qualcos'altro, quello di cui dicevamo prima fra le altre cose, cioè tutto il resto che sta fuori dall'università che ci deve entrare, e ci deve entrare dentro l'università perché quello è il luogo di cultura e di formazione e di incontro. Quindi il tema delle nostre iniziative è anche legato a questo. Quindi alcuni degli incontri del Cineforum sono nelle università, altri sono allo Spazio Alfieri. Okay. Domani. Spazio Alfieri. Okay. Esatto. Fighissimo. Nel mio commento. Un po' anni 90. E fra i prossimi immediati appuntamenti c'è anche il Forum Nazionale contro la Mafia, che organizziamo tutti gli anni e in questo periodo, e adesso sarà quello di quest'anno sarà il 15 e 16 novembre, e ci saranno appunto una plenaria con l'associazione tra i familiari delle vittime della strage di Via Virgofili e insieme all'avvocato Ammanato, che si occupa appunto di questa si è occupato sempre di questo caso, e insieme al procuratore di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, e poi ci sarà anche la presentazione di un libro di Bruno Palermo, che parla di vittime di mafia, in particolare di donne e bambini, e insieme a delle letture fatte da una compagnia teatrale della Pergola, di ragazzi che fanno dei monologhi e leggono delle letture di testimonianze. E il giorno dopo ci sarà un'altra presentazione di libro della giornalista Stefania Limiti, e poi la sera ci sarà un concerto, verranno a suonare, a cantare il gruppo L'Onorata Società, si chiamano, un gruppo siciliano che si occupa, cioè diciamo che la loro agenzia, cioè collaborano molto con i Tinturia, forse sono un po' più conosciuti e comunque si occupano di, appunto, fanno canzoni tematiche, da sempre hanno portato avanti questa idea. Ottimo, direi. E vi aspettiamo ogni martedì a Ecce Theater. Allora, c'è anche Ecce Theater per il corso di teatro gratuito per gli studenti al Circolino delle Porte Nuove. Ok. È già partito? Già partito, sì. Bene. Già due incontri. Bene. Se avete altro, qualsiasi altra cosa, i microfoni sono aperti. Anche altre volte che volete venire qua a trovarci, grazie, a chiacchierare, se avete qualche tema. Bellissimo. qualche lotta. Tipo, esatto. Dov'è che possiamo o possono anche i nostri ascoltatori informarsi, trovare informazioni, eccetera, eccetera, sito, pagina Facebook, lanciate un po' i contatti. C'è un sito che è studentisinistra.org, potete trovarlo subito su Google o qualsiasi motore di ricerca usiate. Non è molto aggiornato, però diciamo cerchiamo comunque. Anche quello nasce da un progetto, l'abbiamo fatto, diciamo, autocostruendo praticamente i server sui quali poggia, okay. Poi quindi tutta c'è un lavoro anche di autogestione dietro anche a questa piccola cosa che ci fa piacere, quindi la gire hacker, esatto, come si dicevamo la settimana scorsa. No, la cosa bella è che siamo universitari, quindi ci sono anche delle competenze non mie, io non sono capace, però c'è qualcuno che ha queste competenze, è bello sfruttarle. Sì, e condividetele poi, condividerle, esatto. E condividerle sicuramente. Il problema forse è riuscire a, appunto, a fare rete e condividere queste cose. Sicuramente la pagina Facebook è molto più aggiornata. E poi il nostro appuntamento che preferiamo è quello il lunedì al Circolo di Porte Nuove, vederci, diciamo, faccia a faccia, la cosa che noi preferiamo, ecco. Quindi tutti i lunedì alle 20:30 al Circolo di Porte Nuove. Forse l'ultima cosa, è una cazzata, però ormai siamo qui, cioè ne parliamo, no? Abbiamo realizzato tutti insieme all'inizio dell'anno una contromappa dove con tutti i collettivi rappresentavamo un po', con tutti i collettivi studenteschi, universitari, sì, indipendenti, rappresentavamo un po' quello che è la condizione della realtà di questi gruppi a Firenze in questo momento. Le stiamo distribuendo nelle varie università, nelle varie scuole, ogni collettivo lo sta facendo, e l'idea è quella proprio di vederci insieme, anche rappresentarci insieme, no? E quindi è fondamentale per darci forza. È proprio una mappa, mi pare. Sì, è proprio una mappa di Firenze, direi. Non lo potete vedere, però è una mappa di Firenze con i simboli dei diversi collettivi. Poi ci sono un po' di informazioni legate a dove studiare e cose di questo tipo. E bellino. Poi presentiamo una cazzata anche lui. Sì, capito. C'è una cazzata, non è una cazzata. Ce l'abbiamo per ogni singolo collettivo. Ecco, quindi è stata fatta in collaborazione con Studenti di Sinistra e i singoli collettivi dei vari luoghi. Questa è la competenza degli architetti, no? Prima parlavamo di ingegneri informatici, qui escono fuori gli architetti. Bravi, ragazzi. C'è cioè chi fa server e chi fa cartine. Esatto, giusto? Esatto, perfetto. E chi monta? E chi le gira? E vi salutiamo, ragazzi. Grazie, vi salutiamo, vi ringraziamo. Grazie mille, ciao, ciao a tutti. Evviva, evviva, evviva. Grazie evviva. Anche a voi. A chi voi? Da oggi potete dire Wombat Wombat anche voi. Sì. Per dire qualcosa di molto bello. Forse adesso ci ascoltiamo una canzone. Sì, ho sicuramente interpretato bene un cartello. Regia, cosa ci mandi tematicamente legata a questa una canzone. Vai, Youth dei Daughter, dedicata a voi. Oh, che dolce. A Chavendo Wombat. Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. Still bleed. waiting, you're the lucky ones. 'Cause most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire to our insides for fun, collecting pictures from a flood that wrecked our home. It was a flood that wrecked this. Because most of us are bitter over someone, setting fire to our insides for fun, to distract our hearts from ever missing love. E voilà, eccoci qua, eccoci qua. Ma io sento già delle note pazzesche. Cioè, raga, queste note le conoscerete quasi sicuramente. Canzone che ha segnato, insomma, decenni, ecco, ormai piace a generazioni intere. I Pooh. Stiamo parlando, sì, dei Pooh. di Salt on the Swing, dei Dire Straits, una canzone che a me è sempre piaciuta, al di là del fatto... musicale, ecco, insomma, delle note che ci sono dentro e i suoni che si ritrovano. Mi è sempre piaciuta anche molto per il senso che ha. Infatti parla dei Salt on the Swing, che sono insomma un'immaginaria band di persone che fanno altro di lavoro, non suonano di base, ma che ogni sabato sera si ritrovano sempre nel solito circolo a suonare jazz, a suonare swing. E sono il Salt on the Swing, quindi niente, una canzone che parla di musica per l'amore di fare la musica, semplicemente. Dire Straits, andiamo a parlare di Dire Straits, grandi Dire Straits. Cos'è che vuol dire Dire Straits? Che cavolo vuol dire Dire Straits? Chiediamolo un pochino a chi sa meglio l'inglese di me, però vuol dire una cosa tipo terribili ristrettezze, tremende avversità, una cosa tipo i messi male, una cosa... giusto? Sì, sì, confermo. Bravo. Mi confermo. E messi male, tutto ciò si riferisce alle condizioni economiche nelle quali versavano i principali componenti del gruppo nel periodo in cui hanno sfondato poi. E andiamo a parlare del disco Dire Straits, un disco bellissimo dal punto di vista musicale, nel quale i temi ricorrono all'interno delle canzoni. Adesso si farà alcuni esempi, ora quando passerà l'assolone di Salt on the Swing che tutti quanti conoscete, lo riconoscerete, ne riconoscerete una parte anche in un altro pezzo che passerò dopo, per dirvi che è un disco molto bello da ascoltare in quanto ci sono riferimenti musicali alle altre canzoni in praticamente tutte le canzoni, sono quasi tutte legate. Il filo conduttore tematico di questo disco è, diciamo, è un disco molto introspettivo, riflessivo, e niente, è stato scritto interamente da Mark Knopfler, come tutta l'opera dei Dire Straits. Chi era Mark Knopfler? Nel 1977 Mark Knopfler aveva fatto esperienze molteplici, diciamo. Era un English teacher alla scuola, era un chitarristino, diciamo, andava, aveva fatto qualcosa da chitarrista, ma insomma non si sottovalutava molto, ecco, diciamo. E siamo nel 77, siamo a Londra, periodo mega punk, quindi i Dire Straits hanno avuto anche difficoltà inizialmente a uscire fuori, perché riportano ovviamente sonorità molto più blues, pulite, in contrasto, diciamo, con la rabbia e con lo sporco del punk che stava, insomma, stravordando in quel periodo. Cosa è successo nel 77? Mark Knopfler ha raggiunto il fratello nella periferia sud di Londra, in una casa in cui c'era David Knopfler, il fratello di Mark, altro chitarrista nella formazione dei Dire Straits, e il bassista John Ilsey. Si sono uniti poi a un quarto personaggio che menziono anche perché ha collaborato, non so se qua si fa collegamenti a puntate vecchissime, ecco, ha collaborato con i Primitives per collegarsi a due pezzi core, Malle, i Primitives, eccetera, eccetera. Ho trovato anche questa curiosità qua. Cosa succede? Tutti quanti sentono le canzoni che aveva Mark Knopfler, che ne aveva un tot nella sua borsa, ecco, e rimangono abbastanza esterrefatti e dicono: vabbè, mettiamo su un gruppo per forza. Cosa succede? Sempre a fine del 77 viene fatto un primo concerto con il nome di Café Racers. E com'è che viene fatto questo concerto? Con un mega prolungone elettrico attaccato direttamente alla presa di casa di Mark Knopfler e di suo fratello e del bassista. E dietro al condominio viene fatto questo grande concerto, proprio per dire come inizialmente non credessero in loro i Dire Straits. Ad esempio, all'inizio, un'altra cosa molto interessante dei Dire Straits è che chiedevano sempre di abbassare il volume ai concerti, in modo da far sì che la gente parlasse tra sé durante il concerto. Adesso io non voglio insomma parlare troppo di questa canzone nello specifico, Salt and Swing, di questo disco. Vorrei presentarvi l'apertura di questo disco, che sono due canzoni d'amore che utilizzano l'acqua come metafora, tendenzialmente. Cioè, no, una utilizza l'acqua come metafora, quell'altra ci si ritrova comunque l'acqua. La seconda, partiamo dalla seconda, facciamo gli originali. Si titola Water of Love e dice: Water of love deep in the ground, but there is no water to be found. Vuol dire, cioè, l'acqua dell'amore sta sottoterra e non la troviamo. Someday baby, when the river runs free, quando insomma il fiume verrà fuori e andrà libero, it will carry that water of love to me, mi porterà questa acqua dell'amore. Ecco, una canzone di aspettando l'amore, ecco. E down to the waterline, let's go down to the waterline. Scenari, insomma, mistici, in riva al fiume, di un Mark Knopfler giovane. Ed ecco adesso, Down to the Waterline, 1979, Dire Straits. Kisses in the dark. faster, fast and silent in the night. Over my shoulder, all you can see are the high lights. No money in our jackets and our jeans at all. Your hands are cold, but your lips are warm. Ed ecco qua, Water of Love. Questi due pezzi erano anche, sono anche usciti come singolo, uno lato A e uno lato B. Water of Love. Via. Up higher, higher, higher. E rieccomi. Niente, avete sentito Down to the Waterline e Water of Love, che sono l'apertura di questo disco incredibile, che è Dire Straits, che secondo me se la gioca alla grande con Brothers in Arms dell'84 come super discone dei Dire Straits. Qui sentite la numero 3, vi sto passando soltanto l'inizio del disco praticamente, e sentite di già come oscilla, ecco, il ritmo quasi va più sul country rock. Dopodiché c'è la numero 4, questa, la 3 è comunque una canzone d'amore, Setting Me Up, e dopo abbiamo Six Blade Knife, un'altra canzone d'amore dove si va giù di dinamica, dove si ritorna tranquilli, si riconosce la chitarra pulita e suonata con tre dita da parte di Mark Knopfler, incredibile, pazzesca, viva. E poi la suona con tre dita, non la suona con il plettro, utilizza tre dita. Ah, okay. E quindi per questo si, insomma, il suono è così pulito, insomma, è caratteristico. Se senti suonare Mark Knopfler lo riconosci in mezzo a altri miliardi di chitarristi tranquillamente. Ok, grazie. Abbiamo poi canzoni di immigrazione, Southbound Again, oppure anche Lions, l'ultima canzone, sono canzoni che parlano di Londra, che parlano di spostamenti e della vita fondamentalmente di Mark Knopfler, che appunto, come ho detto, Dire Straits erano le sue canzoni dentro allo zainetto e le ha tirate fuori a un certo punto. Cosa c'è da dire poi su questo disco e sugli inizi dei Dire Straits? Un paio di curiosità. Primo, i primi concerti a Londra erano fatti come gruppo spalla dei Talking Heads. Vorrei vedere chi è che non ci sarebbe voluto andare a un concerto di quelli lì. E poi un'altra cosa, non hanno fatto successo inizialmente, cioè a Londra non piacevano. È quello che volevo chiederti, sì. Cioè se aveva fatto successo questo disco. No, un cavolo nulla a Londra inizialmente dico i primi mesi, perché erano delle bombe, si sentono, e non hanno fatto successo inizialmente per appunto per il periodo punk che stava vivendo Londra. Eppure essendo un album molto molto londinese, non ha avuto successo a Londra. Dov'è che ha avuto successo? A Amburgo principalmente. Hanno fatto un tour europeo, e in particolare in Belgio, Olanda e Germania. Si sono iper mega lanciati. Quindi niente, io come una settimana sì, una settimana no all'incirca, vi consiglio di ascoltarvi dall'inizio alla fine questo Dire Straits, che è un disco che veramente va sentito, dai, via, le buono. Niente, cosa faccio? Vi lascio con questo sottofondino country blues. Ci piace. E niente, lasciamo che la trasmissione vada avanti. E cosa posso dire se non Wombat Wombat? Nient'altro. Wombat Wombat, allora. Grazie, Grippo. Che meraviglia. Che meraviglia. Grazie molto. Un giorno avrai anche tu una sigla. Qualità e simpatia. Quando te la farai da solo. Perché dobbiamo dirlo che il maggior fautore delle sigle è il nostro Grippo. È il nostro Grippo, odiovato dal nostro amico. La voce di Grippo nelle sigle. Tra l'altro. Peraltro. Onnipresente. E ho odiovato dal nostro amico Bruges. Che finalmente salutiamo. Posso, tra l'altro, ringraziare di persona per la sigla dell'Uro dei Balcani. Prego, prego. Yuri! Esattamente. Yuri. Ma non c'è oggi Yuri? No, oggi non c'è Yuri, settimana prossima. L'avevo annunciata, impegnato. Però dobbiamo lasciare spazio a tutti, perché è giusto. È giusto, Yuri. Houston, mi guardi? Ti guardo. Mi pensi? Sicuramente. Potremmo scrivere una canzone sopra. Pensando, Kant dice. Cosa vuoi? No, niente. Ok. Andiamo avanti, ringraziamo ancora una volta Grippo. Per il grusto grippico, sì. Per il disco grippico, sì. Però io vorrei prima di passare della serie Le Perifezie. Esatto, cioè, okay. Abbassiamo nettamente, non so, il livello di serietà. Sì. Grazie ormai stiamo seguendo Le Perifezie. Sì, è un po' una sottorubrica della trasmissione. Esatto. Le Perifezie della destra italiana, che tanto ci fanno ridere. Sì, dopo aver raccontato la nave anti-migranti e anti-ONG naufragata, certo, in mezzo al Mediterraneo, volevamo oggi parlare, a proposito, con diversi, cioè con l'equipaggio che era rimasto a bordo, un equipaggio bengalese, sì. Volevamo riallacciarci, abbiamo letto queste notizie uscite anche sui quotidiani nazionali, insomma, quelli grossi, quelli anche perfidi in certe situazioni, ma c'è questa inchiesta dei Carabinieri di Roma su Forza Nuova, e non solo su tutto ciò che tutti i giorni fa Forza Nuova nelle periferie e nei quartieri romani, cioè per esempio l'ultima è questi Bangla Tour, le chiamano, e sono delle ronde notturne in cui i migrati Bangladesh, indiani, che lavorano tutta la notte a Roma, soprattutto nei ferai, ma anche in tante altre attività, vengono pestati spesso a sangue, lasciati in strada, e loro li chiamano i Bangla Tour. Si divertono così, ci sono molte indagini su questi Bangla Tour. Non commentiamo nemmeno, ovviamente. Non commentiamo nemmeno, come non commenteremo qualcos'altro, per esempio, di tour loro. Il candidato a Ostia, non so se hai visto. Boia. Un tipino niente male, che ha minacciato di sbudellare ragazzini. Sì. Bene, e tra l'altro Ostia, sembra ora l'ultima volta che ho guardato, ci sono le elezioni, come in Sicilia, a Ostia, comune sciolto per infiltrazioni mafiose, che non è un comune, poi è il comune di Roma, però è un municipio, e quindi c'ha il proprio piccolo sindaco. Il voto, cioè Casa Pound ha preso forse un po' troppi voti, è arrivato al 9%, quindi sarà fondamentale poi probabilmente al ballottaggio, insomma, si allargano. Sì, contando, se non sbaglio, appunto, poi il ballottaggio ora mi pareva di aver letto, non vorrei dire una sciocchezza, ma tra 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Sì, esatto. Quindi esatto. Si può già immaginare, nel caso, i voti di Casa Pound, sì, dove potrebbero defluire. E quindi, insomma, una delle aree di Roma, soprattutto poi anche abbastanza importante per tutto ciò che riguarda il lato costruttivo delle costruzioni. Cioè, Ostia è il regno dell'edilizia di questi anni. Sarà in mano probabilmente a progetti fascisti. Sì, esatto, che vanno, no, nella loro lotta, nella difesa degli italiani poveri. Sì, però hanno bisogno di dicono soldi. Di essere, certo. E quindi ci rilacciamo alla notizia che volevamo portare. Mi stavo riallacciando a questo. Sono molto contento, puoi raccontarne le dinamiche se vuoi. No, niente, allora, questa indagine dei ROS di Roma, appunto, hanno portato alla luce. Abbasso il livello del tono di voce. No, scrolla in giù, okay, il mouse, scrolla. Tesoro, grazie. Prego. portato alla luce, appunto, come questi difensori dei poveri italiani vanno poi in realtà ad avere dei finanziamenti totalmente illeciti, mafiosi, da tutti i punti di vista. Sì, esatto. Dici. No, questo, vai. Passando da essere a creare, no, delle società in tutto il mondo e fornire fra i loro il loro, come si dice, prestanome, iscritti, sono anche inconsapevolmente usati come prestanome. Sì, c'è, cioè, appunto, iscritti di Forza Nuova a Roma, c'è, cioè, questa indagine dei Carabinieri che mette alla luce che molti iscritti di Forza Nuova sono intestatari di società offshore su cui vengono girati dei soldi, che poi vengono utilizzati anche ovviamente per finanziare questi Bangla Tour, queste elezioni, tutto quello che fanno. Sono fondi plausibilmente neri in tutti i sensi, assolutamente, e che vengono anche risciacquati e ripuliti in questo magnifico sistema del riciclaggio internazionale. Mani in pasta in compra oro, mani in pasta in una catena di dentisti. I blu, come si chiama? Lo ricordo, come si chiama la vabbè, comunque non ci andate nel dubbio. Non ci andate. No, e Roberto Blue Dental Clinic Italia. Eccolo lì. Roberto Fiore, leader di questo movimento, è indagato per essere l'ideatore e il mandante di tutta questa costruzione, simpatica costruzione. Ma non finiscono qui i collegamenti. E poi concludiamo con queste peripezie assurde. Diciamo che l'altalena di Forza Nuova va a allargarsi anche verso il Vaticano. Bene. Che non manca mai. Incredibile, il Vaticano è davvero che fa davvero da calamita un sacco di cose illecite. E peraltro mi ha incuriosito il fatto che tra le intercettazioni telefoniche dicono: ah, cavolo, il Vaticano ce l'hanno un po' rubato, è stato Salvini. Sì, è vero. E quindi Salvini a quanto pare gli ha rubato i contatti nel Vaticano. Ma no, non è vero, Salvini gli ha rubato i contatti con la Russia. Salvini ha rubato la Russia, anche perché, vero, Salvini non piace il Papa. No, è vero, è vero, non gli ha detto così. Comunque, sì, gli ha rubato i contatti con la Russia. Con la Russia, ovviamente, vengono cercati nei partiti nazionalisti e ultraconservatori russi, degli alleati anche dai nostri amici fasci. E sono venute fuori appunto queste intercettazioni nell'ambito di questa inchiesta su questo riciclo di denaro, che ha portato anche un po', appunto, un po' di altre notizie, ecco. Esatto. E quindi, al pari di queste, altre notizie inutili ci possono giungere? O cose del genere? Invece no. E invece no. Aspetta, invece no. Aspettate, che stavolta a sto giro sono pronto. No, ah, no, no, aspetta. No. Qui si sta creando il panico, lo scompiglio, orrore, terrore. Nuova rubrica. Da solo. Nuova rubrica. Improvvisamente, è così. Come si dice rubrica in inglese? Rubrica in inglese? Adesso in questo momento non mi viene in termine, benissimo. Rubrics. Che vuol dire nuova rubrica, caro? Nuova rubrica perché mi porto una nuova rubrica che è Piccoli brividi crescono. Una rubrica sull'horror. Così. 5 minuti di ammazzamento della qualità del palinsesto. Ti vengono il lunedì. Prego, non hai una sigla, quindi, a questo punto. Non ho una sigla. In questa rubrica parlerò di horror nelle sue varie forme, soprattutto cinematografico, magari anche qualche libro, chissà. Nei suoi vari filoni, quindi horror comedy, qualunque genere. E oggi parlo di una serie culto il cui primo film è uscito per l'appunto lo stesso anno del primo disco di The Dire Straits, di cui abbiamo parlato, cioè nel 79. Bravo. E questo film è Phantasm. Phantasm. Un film poco conosciuto. Che è come si dice fantasma in inglese, forse. Certo. Esattamente come rubrica. Esatto. Vai, infatti, in Italia è uscito con il titolo di Fantasmi. E diretto e ideato da questo regista italo-americano Don Coscarelli, che si è basato su un suo sogno e ha fatto un film. Inizialmente l'ha girato di 3 ore. Poi ovviamente ha tagliato il tutto, ha detto no, diventa inguardabile, quindi l'ha fatto di 1 ora e mezza. Però tante delle scene tagliate appaiono poi negli altri film, perché la serie in realtà è iniziata come basata su un sogno del regista, e poi l'ha trasposto in chiave cinematografica, e questo sogno cioè questo film, come nei sogni, è molto incoerente. Ci sono un sacco di scene strane, tagli strani, non si capisce a volte dove va a parare. Però questo è diventato poi un film di culto e ci sono stati dei seguiti, uno nel 84, Phantasm 2, un altro nel 94 e il quarto è stato nel 98. È poi uscito un quinto film del 2016 che non è stato diretto da Coscarelli, da un altro regista, ma è comunque la sceneggiatura e la storia sono sempre a cura di Coscarelli. E la cosa bella di questi seguiti è che la storia è continuativa, non è come in altre serie horror dove generalmente c'era un reboot, un remake, cambiava la storia. No, l'ultimo film riprende da dove ha preso il film prima, da dove era terminato. E quindi è un caso di una serie cinematografica di 5 film, di una storia raccontata in 27 anni. Figo! E il primo film era girato, e tutti i film della serie sono girati a basso costo. Low budget. Sì, molto low budget, e quindi è stato anche quello che le ha lanciato poi nello status di culto, perché nonostante tutto è fatto veramente sono fatti molto bene come film. E diciamo la trama in breve, ecco, bravo, senza poi magari andare a spoilerare, c'è questo questo ragazzo in circostanze misteriose, si vede all'inizio che viene ucciso, dicono che è stato un suicidio, c'è il funerale dove c'è ci sono i suoi due amici che fanno parte di una band e il fratello piccolo che osserva il funerale da lontano. Okay. E mentre osserva il funerale tutti vanno via e la bara, che ancora non è stata interrata, viene sollevata proprio di peso da questo becchino che da solo la prende, se la carica sulla macchina e va via. E questo becchino in realtà è un essere sovrannaturale, non voglio dire molto. Spoiler che alert. Utilizza i morti per i suoi scopi, ne fa dei piccoli nani zombie. Dei piccoli nani e zombie. La serie poi ovviamente, diciamo, si sposta anche in tono sempre di più verso la commedia e anche un po' l'assurdo. Ci sono elementi di fantascienza, di sci-fi, ci sono elementi di fantasy. Ma quando è che vengono creati questi nani zombie? A che punto del film? Perché secondo me già lì si sta spostando verso... No, agli inizi, li vediamo già dagli inizi, non spoilerò grosse cose. Poi in realtà ci sono molte altre cose nel film, non ci sono solo i nani zombie, sono una delle cose che ci sono nella serie. Io vi consiglio di guardarla, sono reperibili, credo i primi 4 siano stati distribuiti tutti in italiano, il quinto no. Però c'è internet. Allora, se è un film di culto, hanno fatto i sottotitoli sicuro. Esatto. E no, davvero, io vi sento di, sento di consigliarla come serie agli amanti dell'horror, ma anche ai non, anche alla commedia, anche ai non, anche alla commedia o alla fantascienza. Ovviamente la storia è molto particolare, non si spiega mai troppe cose, molte cose vengono lasciate anche all'interpretazione di chi guarda il film. Beh, io me lo guarderò sicuramente. Lo so. Lo sapevi. Vabbè, comunque io concludo qua perché non voglio rubare il tempo agli altri. No, assolutamente. Naturalmente. Io comunque vi consiglio appunto questa serie, tra l'altro bellissima interpretazione di Angus Scrim, l'attore che interpreta il Tall Man, cioè questo becchino, che viene sempre riferito come uomo alto, non gli viene mai dato un nome, e che purtroppo è morto dopo il quinto film, perché doveva esserci un sesto, probabilmente ci sarà, ma il regista ha detto che non verrà fatto con altri attori, cioè verrà fatto con altri attori, non con quelli originali. E l'altra grande interpretazione è Reggie Bannister nella parte di Reggie, che gli ha lasciato il nome proprio. Cioè interpreta se stesso o interpreta? Interpreta un personaggio fittizio, però basato su, che il regista ha scritto un po' cioè basandosi sul rapporto d'amicizia che c'è tra loro due. Tra l'altro la cosa curiosa è che lui assomiglia tantissimo all'attore, ora non mi viene il nome, che fa Hank in Breaking Bad, il fratello quello della droga, antidroga. Ci assomiglia veramente tanto. Io gli ho guardato il film e ho detto: ma è lui o non è lui? No, non è lui, però ci assomiglia veramente tantissimo. Hank, sì. E niente, quindi vi consiglio questa serie. Ora, questa era la prima puntata, che apparirà ogni tanto, questo piccolo brivido di Cristo a caso. Okay. E comunque continuerà la seconda stagione di Nozioni Inutili, visto che ormai fa figo dire stagioni. Abbiamo fatto le prime 5 puntate, alla fine della prima, certo. Si è chiusa col botto, no? Con One Who che esplode. E questo è lo spin-off, Piccoli Brividi Crescano. Porterò un altro horror a breve. Bellissimo. A me piace. Vedo che la regia è preparatissima. Su? No. Su, però sembra. Che canzone è questa? Questo è Alan Parsons Project, Dr. Tarr and the Professor Feather. Quello lì. Che quel giro lì però sembrava quasi una roba da colonna sonora anni 70, film horror. Beh, indubbiamente è un album del 75. Ci può stare. Quindi sì. Dai, bravi ragazzi. E per l'appunto quest'album è tratto da Tale of Mystery and Imagination di Edgar Allan Poe. Vedete la grandissima regia, che in realtà non lo dice ma fa questi bei collegamenti. Grandi ragazzi, grazie. Quindi ti aspetta per la nuova grazie. Il mio inconscio è più sveglio di me. A proposito di regia, forse ci mandiamo una canzonaccia, eh? Canzone. Dai. Grazie. In my side, I think I'll be a situation, gonna make it right. In the shadow of the darkness, I stand in the light. See, it's our style to keep it true. I had a bad year, I'm going through. I've been knocked out, beat down, black and blue. She's not the one coming back for you. She's not the one coming back for you. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. It takes disaster to learn a lesson. You're gonna make it through the darkest night. Some people put shame on it, class treason. Wanna make everything alright. If I'm looking like really crazy, I'm way down, she betrayed me. Now my vision is crazy, I'm way down, she betrayed me. Now my vision is no longer hazy. I'm very lost. dancing through. I've been knocked down, beat down, black and blue. She's not the one coming back for you. She's not the one coming back for you. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, e rieccoci qua. Hai visto, le novità vanno più veloci di noi. Sì, molto più veloci di noi. È la bellezza un po' di questa malleabilità del nostro programma. Assolutamente. Che meraviglia. Beh, lo vedrai questo film, come fare la recensione la prossima volta. Recensione. No. La recensione è la recensione. No, noi non facciamo recensioni qua. Meno male. Però lanciamo input come sempre. Piccoli brividi crescono, com'è? Quello, bravo. Quello lì. Hai detto bene. Ho detto bene. Penso. Tra l'altro te leggevi i piccoli principi brividi? Sì, non mi ricordo niente della mia infanzia, ma quello sì. Quello te lo ricordo. Non bene, però. Copertine pazzesche, secondo me. Storie un po' meno. Allora, ecco qua, sentiamo. C'è anche l'Apo qui con noi. C'è anche l'Apo. T'ho tirato in ballo. Non c'è, c'è. Balla. Non c'è. C'è anche un terremoto probabilmente sotto, non vogliamo fare allarmismo, ma... No, no, noi andiamo avanti fino alla muerte. Fottiamo e... Allora, siamo arrivati a un orario tardo, ma non troppo tardo. Che ora sono? Sono le 18:11 in punto qui su Radio Wombat con le polveri. Per dimostrare anche che siamo in diretta, non si fa così. Esatto, esatto. Cioè, tutte cose pratiche. Tipo, io ho un accendino giallo in mano, per far capire se siamo. E poi, secondo me, è divertentissimo, se uno si ascolta il podcast, dare l'orario sbagliato. E siamo pronti come tutte le settimane per darvi la rassegna degli eventi che ci sono in città, gli eventi alternativi che ci sono in città. Sì, quelli che un po' ci piacciono. Allora partiamo. Anzi, ci piacciono tanto. Partiamo da ora. Aspetta, no, attenzione. Aspetta, partiamo dalla sigla. Partiamo dalla sigla. Ah, già, è vero. Sigla. Rassegna eventi. No, questo è peculiare. Per dire che ci mettiamo un po' a accenderci, ma poi andiamo. Ok. Boh, no. Se ne erano accorti da soli i nostri ascoltatori. Allora partiamo da oggi. Sì. Gli eventi di oggi. Allora ribadiamo. Quello più facile. Ore 19:31, okay. Quindi fra non troppo. In quel di Polveriera l'assemblea dei collettivi universitari di studenti sinistra. Sì. L'edizione di sinistra chiamata generale. Con anche mangiare, quindi se vi imbucate trovate probabilmente qualcosa da mangiare anche se non vi siete organizzati. Meglio prima. Portare cibo da se casa. Se riuscite, sì, ma se non da condividere. Però non è l'unica cosa che è presente qui in città stasera. Infatti, nelle officine cinematografiche del CPA. Al CPA, praticamente. Quindi al CPA. Sì. C'è un aperitivo alle ore 19. Poi c'è la cena. E ore 21 inizia la proiezione. No, non è vero. La proiezione inizia alle ore 22:30. Alle 21 si cena. Giustamente. Sì. E viene proiettato ottobre. giustamente. È un film del 1928, quindi proprio una novità. Di Sergei Mikhailovich Eisenstein, che non so pronunciare. Eisenstein. Ah, già. Eisenstein, no, c'è presente, no? Questo è un momento importante. Famosino, non lo so. Importante. Non mi dice assolutamente niente. E 102 minuti, ci dice. La razzata vota, sì, è dello stesso regista. Allora, ci sai dire qualcosa di più, Lapo? No, no, nessuno l'ha visto. Nessuno l'ha visto, però siamo nel centenario della rivoluzione d'ottobre, quindi in tutta la settimana, nella scorsa e nella prossima, ovviamente si festeggia per tutto. Tutto. Festeggiamo, no, per tutto. Sta. Ottimo. Ho visto la luce! Lui ha visto la luce! Cos'è? Cosa c'è Bruce sotto? Brothers. Ah, Bruce Brothers, scusatemi ragazzi. Ignoranza. Dormo un po'. E allora sono cavoli tuoi, sorella. Grazie. E però non è avanti, l'unico, cioè, siamo a lunedì, ci abbiamo messo mezz'ora a dire le prossime due cose, succedono le prossime tempo due ore tempo. Che sono già tempo finite praticamente. Tempo al tempo. Allora, prima data del Cineforum femminista invece in Ponte di Mezzo. Sì. Alle ore 21:30 c'è la proiezione di Frida. Ok. Quindi altro appuntamento cinematografico del lunedì. Si accavallano, sì, ma potete scegliere cosa vi interessa di più, come sempre. Sì. Prima dell'aperitivo ci sarà però prima della proiezione ci sarà però un aperitivo benefit. Non una di meno. Per il Pullman, esattamente. Manifestazione il 25 novembre. L'ho detta, buttate. Vabbè, intanto lo diciamo, lo ridiremo quando sarà il momento. Ma scrivetevelo sulle vostre agende se le avete. Ok. Passiamo finalmente a martedì. Dai. Va bene. Allora, martedì 7. Vuoi fare un riepilogo del lunedì? Allora, lunedì, allora vi dicevamo. Cioè, no, martedì 7, ore 16:30 c'è il laboratorio di rebirthing, sì, in polveriera. Quindi non mancate, momento di rigenerazione interna. Rigenerazione. Come? Non ti sbilancia. Non mi sbilancio, va bene. Abbiamo invece l'Agraria Trash Film Festival con la proiezione di L'Armata delle Tenebre, che andate assolutamente, bomba, di Sam Raimi, pazzesco. Evil Dead, Evil Dead 2. Come? Evil Dead. Ah, certo, bravo. Primo, insomma, la allora, casa in italiano credo sia. Sì, sì, penso. E peraltro poi anche il seguito dell'Armata delle Tenebre, Ash vs Evil Dead, che è una serie capolavoro con Bruce, sì, Bruce Campbell è veramente... e Lucy Lawless, Xena. Bravo, sì, bravo. Grazie. Questo comunque è cose per importanti. I denti dei piccoli brividi crescono proprio palesemente. Hai visto, è proprio roba loro. Come? Comunque, a seguire musica live acustica, Iapo Carducci e Francesco Mirri. Vabbè. Giove le ove. Che hai detto? Giove le ove. Ah. Filastrocca. Sono top. Sì. Giovedì 9, quindi, sì, vuoi dire, allo spazio inchiostro, c'è la, vi ricordate se era detta tutta la serie di appuntamenti su che avverranno in tutto il mese di novembre e anche dicembre, penso, allo spazio inchiostro. Ci saranno diversi incontri sul tema della Firenze città vetrina, esatto, e sul turismo che la attraversa. Dal nome l'industria del nostro secolo. Bravo. Esatto. E la... l'iniziativa, sì, si, il titolo è Vivere nella città vetrina, trasformazioni urbane e sociali, è tutto il aiutami, che cosa è il comunicato, è la presentazione, è il cosa vuoi dire, no, che è il nome di tutta la di tutto il ciclo di iniziative, certo, giusto, ok. E però possiamo leggere un estratto da questo comunicato. Vai. Va bene. Vabbè, la descrizione, semplicemente la descrizione, esatto, che informa sull'evento, su cosa avverrà. Ok, va bene, leggo io, questo, dai. Va bene. Certo, Ciccio, vai. Vai. Dopo averne discusso nel primo incontro dedicato al selfie del mondo con la presentazione di Marco Deramo, cioè settimana scorsa, ora vogliamo approfondire le ripercussioni dell'industria turistica sulla città. Verranno quindi evidenziate le trasformazioni facilitate da un'urbanistica che si è resa servitrice dell'estrattivismo. Antonio Fiorentini. E le possibili ipotesi progettuali per recuperare le relazioni tra centro e periferie. Roberto Bonini Gattai, questi sono i relatori. Tra parentesi, esatto, sono i relatori che parleranno su questi temi. Le ripercussioni della situazione abitativa, Maurizio De Zordo e Giuseppe Cazzato. A partire per esempio dalla questione di Via dei Fefi, l'affermazione di Airbnb nelle città storiche e l'accentramento dei profitti che ne derivano. Mi sono intortato, non... Sì, ok, sì, di questo bene. Parlerà Stefano Picascia. Picascia, sì. E un altro tema che verrà affrontato è il Dust Urbano, che crea nuove espulsioni, nuove recinte, zone rosse, in corrispondenza delle aree interessate ai flussi turistici. E Niccolò Bartoloni, appunto, parlerà anche di questo tema. Quindi questi sono 10.000 temi, li ho messi tutti insieme. E non solo, perché si parlerà anche di Mondeggi, la fattoria senza padroni, che è a rischio vendita. Sì. Da parte della città metropolitana, sì, che è già in vendita, cara, che è già in vendita, sì, sì, cioè a rischio, perché non penso ci sia ancora un acquirente, se non sbaglio. Ci sono interessi, ma non ancora un acquirente, okay, certo, no? Esatto. E relazione Alessio Capezzuoli. Beh. Quindi un giovedì bello, bello intenso allo Spazio Inchiostro, dove c'è tanta roba da sentire, probabilmente anche per c'è la spazio anche per intervenire. Esatto, mi manca l'orario sinceramente di inizio. Però tutta sta roba, se me ci mettono tutta la giornata. Andate lì la mattina, state lì comunque, finché non inizia, state finché non cercate c'è. Anche semplicemente sulla pagina Trovate, Facebook sì, di Inchiostro, sì, Spazio Inchiostro, sì, Inchiostro con la K, e potete trovare tutte le informazioni. Esatto. Passiamo a venerdì 10. Venerdì 10 al K100, Camilo Senfuegos. Sì. Che è definibile centro sociale, sì, certo, certo. Centro sociale a Campi Bisenzio, via Chiella numero 4. E venerdì 10 alle ore 23, dalle ore 23:30 alle 3:30 della mattina, Welcome to Skyville, Vinyl Only Night. Quindi una. Quindi sì, musica su vinile. Un viaggio nel tempo lo definiscono. Carox, Teddy. Il esatto. Reggae, dico. Esatto. Early Reg. Cos'è l'Early Reg? Il primo reggae, il reggae dei primi... Jefferson Airplane? O i primissimi Pink Floyd? Per citare il due bucolico. Quando si parla di Jamaica. Ok, ok. E allora, dobbiamo dire anche questo, dalle 22:30 alla console, vero? Diciamolo. Rudy Pressure, sì, da Roma. Sì. Kaya da Firenze, sì. Ninette da Roma, dai, La Svolta Sound System da Firenze, sì, e il loro nuovissimo sound system Valvolare, per regalarci un viaggio sonoro negli anni 60. Ottimo. Ci regala un viaggio sonoro negli anni 60. E questo pezzo sotto, mamma mia, ci porta verso la fine della settimana. La regia ha veramente a livelli altissimi. Allora, però, attenzione, non dimentichiamoci, venerdì 10 è anche il compleanno. Un compleanno. Mese di compleanni, questo, perché è tutto un mese, pubblicizziamo tutto il mese. A parte inizia ora il mese del Next Emerson. Invece c'è il compleanno del Ponte di Mezzo. Sì, dell'occupazione via Ponte. Dell'occupazione, certo, dell'occupazione Ponte di Mezzo. Quindi dalle ore 18, venerdì 10, disegni dalla frontiera contro il razzismo, presentazione di Francesco Piobicchi. E dalle 21 c'è la scena di buon compleanno, più una jam session. Esatto. Ok. Sabato invece, sabato sera ci spostiamo alla polveriera, in cui ci sarà un contest hip hop. Ora, vuoi subito aggiungere qualcosa? Perché io stavo promettendo che il contest, vabbè, si svolgerà appunto nello spazio della polveriera dalle presto, penso. Lo sapete? Dai, raga. Certo, no, scusa, ci pensavamo tu andassi. No, non mi ricordo a che ora inizia. Però contate di venire qua presto. Dalle 18 mi sembra. Dalle 18. Diciamo dalle 18. Poi comunque sull'evento potete vedere tutto. Vedere tutto, tra l'altro, non soltanto l'orario all'inizio, ma anche le modalità di svolgimento. E anche i appunto su come le regole del contest, le regole del contest. I premi. Come funziona. Esatto. Diciamo. Sì. In modo di iscrizione, tutto, insomma, c'è il anche per ben iscriversi, spiegato sull'evento, sulla pagina Facebook. Esatto, è un po' un tentativo di ridare vita appunto alla cultura hip hop anche qui a Firenze, legato però anche agli spazi occupati, certo, autogestiti. Infatti hanno scelto la polveriera come luogo dove si terrà questo contest. Infatti, per esempio, vi leggiamo velocemente, citando quello che hanno scritto nell'evento: la cultura hip hop nasce nelle strade e nelle strade deve rimanere. Sempre più spesso invece artisti e locali commerciali sfruttano il successo che questa musica ha ricevuta per perseguire esclusivamente i loro interessi commerciali. fottendosene allegramente di tutti i valori che stanno dietro questo stile di vita. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare il contest in uno spazio occupato e autogestito. E per lo stesso motivo tutto il ricavato del bar andrà ai nostri fratelli che hanno guai con la legge, perché ogni giorno lottano per riscattare la loro generazione dal destino di merda che gli è stato riservato. Quindi dai, i proventi del bar saranno benefit. Ottimo, ottimo, ottimo. Sempre lo stesso giorno. Sabato. Sempre lo stesso giorno, sabato 11. Next Emerson. Dance All Night. Dibattito più presentazione organizzata dal coordinamento anarchico e libertario. Quindi si inizia presto alle 18. C'è un dibattito, no? Sì. Con il titolo come definirsi, come difendersi dalla repressione. Niente, chiaramente bene. Tirano in ballo associazioni e compagni di mutuo soccorso e della libertà d'espressione da Bologna. Sì, verranno da Bologna dei compagni, appunto, penso di che soprattutto anche negli ultimi tempi hanno affrontato le questioni legali del movimento, quindi appunto possono illustrare anche come difendersi da certe situazioni in cui si ritrovano molti compagni. E si va avanti sempre sabato, appunto, al Next Emerson alle 20 con la cena sociale. Poi ci sarà la presentazione del libro La grande realtà immaginaria, storia segreta del multiverso del comic, con l'autore Stefano Bettini, il generale che mandammo una delle prime puntate, l'intervista proprio, certo, il certo, generale certo, come non ricordare. Esatto, riguardo a se non sbaglio la raccolta delle fanzine dei gruppi punk. È vero. Italiani. Sì, è vero. E poi dalle 22:30 appunto questa Dance All Night da titolo con lo stesso generale, Mark Juan e Supa Jam. Benissimo, benissimo, benissimo. Also this. Cioè vabbè, questo assolutamente ci ricollegheremo fra poco a Mondeggi perché è fondamentale. Ma prima concludiamo presentazione del nuovo album La Mala Suerte, Firenze Sud al CPA. Un nuovo disco. Esatto, un altro compleanno. Sono i 20 anni di Mala Suerte. E l'uscita del nuovo album Brucerà per te. Esatto. Prima di infiammare i palchi d'Italia ed Europa. Giustissimo. Anche perché il Mala Suerte nascono proprio al CPA, se non sbaglio. E dicevamo, appunto, ci ricolleghiamo a Mondeggi perché c'è il Rural Party, vero Lapo? Sempre sabato, tutto sabato. Tutto sabato. Attenti a loro. Vabbè, si sceglie come al solito. È il compleanno. Anche questo è un... Dici? No, è una domanda, Lapo. Ma dai, facciamo di sì, anche se... Ah sì, auguri, Mondeggi, bene. No, non credo, credo. No, non è il compleanno, non penso. È solo una bella occasione. Sì. Ok, vedremo persone come della levatura dei pigiama party. Nome notevole. Ma anche la Numa Crew. E svariata altra roba, insomma. Quindi non respect and enjoy, dicono loro. Concludiamo, basta. Domenica 12. Sì. Prego. No, vai tesoro, vai. Allora, dialoghi decoloniali verso la depatologizzazione dell'identità trans. Attenzione. Messico Intersezioni. Comunque, ci sono chiaramente dietro i ragazzi della Squid Parade, che abbiamo intervistato sempre qui a Fuoco alle Polveri. Cosa dire? Fondamentalmente è un incontro sulla anche con ospite questa Jessica Margiane o Margian, pronuncia Mariane, messicano, come si dice, che è un'attività messicana femminista per i diritti delle persone trans, e ci verrà a parlare anche appunto della battaglia che vengono portate dal movimento transfemminista in Messico. E tutto questo dalle 18 in poi in polveriera. Ci sarà anche il classico aperitivo. Apericena. Perché si sgrana duro. La differenza fra aperitivo e apericena teoricamente è che uno si sgrana duro e l'altro no. E siamo abbastanza alla fine, direi. Mandiamo un'ultima canzone. Siamo anche un po' alla frutta, sì. E buona. Sì, buona. È l'inverno e il freddo. Dai. Mandaci una canzone sull'inverno e il freddo, allora. No, okay. No, scherzo. Mandaci una canzone, via. fin da subito, prima d'ogni cosa. Ovvio come i fiocchi, ovvio come in rosa. Ovvio come le allusioni erotiche. Ovvio quanto il nome con le consonanti esotiche. Ovvio che sai già che nella vita sarei madre di maschi, sposa di maschi, amante di maschi. Comunque sarei sempre raccontata da maschi, con meno fantasia dei pastori tedeschi. L'ovvio, sempre l'ovvio, fondamentalmente l'ovvio. La fuga da ogni dubbio, dentro le canzoni ti sussurrano l'ovvio. Ti danno le istruzioni per vestire il tuo doppio. Ti dicono le marche, ti elencano i modelli. Così vuoi sempre quelli, perché sono i più belli. Ti dicono per sempre, ma intendono per ora. Ti dicono l'ovvio di quell'ovvio che innamora. Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio. Il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio. Questo perché baby I love you, baby I love you. Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio. Il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio. Questo perché baby I love you, baby I love you. L'ovvio come l'unica ragione, come una religione. L'ovvio dei popoli anche a colazione. La razione d'ovvietà la danno presto, danno su danno per tutto il palinsesto. Ovvio che parlare delle angosce non deprima. Ovvio che se fai vedere le cosce arrivi prima. Ovvio che quest'anno va del viola. Ovvio che un bidello ti faccia il dopo scuola. E tu li imiti portando ai limiti le relazioni coi tuoi simili. E giustifichi gli atteggiamenti orribili. Elimini il contraddittorio solo col volume. Un'opinione vale solamente se comune. Giri è importante che in mezzo alla gente tu ti senta presente emozioni. Mentre te la tiri svogliatamente, non metti mai niente che non possa attirare attenzioni. Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio. Il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio. Questo perché baby I love you, baby I love you. Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio. Il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio. Questo perché baby I love you, baby I love you. Sai che dipende da te la direzione da prendere. Ascolta il cuore prima di scegliere. Abbi presente chi sei e per chi sei imprescindibile. Il resto son chiacchiere. Sono chiacchiere sui soldi per i vizi, per gli sfizi, per gli spritz di servizi. Chiacchiere su nome di lui, spazio nome di lei, spazio mamera mai, spazio vuoto fra i tuoi. Vuoti che si riempiono con la personalità. Non esiste antidoto, non esiste formula. Ora è il tuo momento, non sei più la prossima. Non aver paura e guardati, sei bellissima. Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio. Il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio. Questo perché baby I love you, baby I love you. Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio. Il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio. Questo perché baby I love you, baby I love you. Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio. Il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio. Questo perché baby I love you, baby I love you. Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio. Il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio. Questo perché baby I love you, baby I love you. Eccoci qua. Eccoci qua, questa tra l'altro, dimmi. Questa no, vai, vai. No, dici, no, no, no. No, dici titolo e autore del pezzo, grazie. Vabbè, questo era chiaramente Frankie Energy. Sì. E questo pezzo è bellissimo, io l'ho, piaciuto, l'ho ascoltato per la prima volta oggi. Ah, pensa un po'. E mi è piaciuto tantissimo. No, allora si chiama L'ovvio. Si chiama L'ovvio, però scritto con avviso, no, nel ritornello dice I love you. Sì. E infatti il titolo è L'ovvio, che ricorda tipo Love You, però, esatto. E niente male, niente male, devo dire. Me lo sono ascoltato andando in cammino verso il mio amico giornalaio. Ah, pensate. Bene. Fantastico, fantastico. Allora, come l'ovvio è che sì, siamo alla fine. Si chiude tutto. Tra l'altro in scaletta avevamo un legge... Un legged lago. Un legged lago. Un lago. Sì, lo voglio un po' bullizzare, guarda. Sì, lo voglio bullizzare. È giusto, è giusto. Anche perché era una super lettura, quindi E quindi vedi di portarla la prossima volta. Mi tocca ascoltare la prossima puntata. No, più che altro abbiamo lasciato dei discorsi a metà. Sì. Ci dicevi che poi buona parte dei discorsi si sviluppavano, sì, andavano avanti, diciamo. Allora, ricordiamo il titolo del libro che stai leggendo. L'etica hacker e l'età dell'informazione di Paul Ickenhamen. Ickenhamen. Ok. Quindi la prossima volta promettiamo prossima anche volta questa promesso, mirabolante lettura. Sì, spero che la prossima volta ci sia spazio anche per lo stream. Yuri! Sì, dai, io penso proprio di sì. Anzi, sì. Lo diciamo. Sì, lo annunciamo. La prossima volta sentirete anche il ritorno dell'Urlo dei Balcani. nonché probabilmente il cuore a pezzi del nostro amico Nick, che è a giro per l'Italia, per il mondo, per il mondo. E che dobbiamo fare? Salutare tutti. Vabbè, il podcast lo troverete tra oggi e domani. Ricordare mail, che io ancora non mi ricordo. Una mail, posta wombat@insiberia.net. Net, vero? Org, davvero? A questo punto insiberia.net. Ok, calma. Quindi abbiamo dette tutte, quindi provate al limite viene scritto. Ma se no andate sul sito wombat.noblogs.org, esatto. E lì sicuramente c'è scritta bene anche tutto il resto, nonché anche tutto il palinsesto, che mi sembra però avete detto la scorsa volta. L'abbiamo letto integralmente, bene, la volta scorsa. Pertanto, quindi ora sono tutti ben consci di ciò che accade qui su Radio Wombat, ma non sufficientemente, perché ogni giorno arrivano nuove rubriche. E quindi bisogna stare sul pezzo. Certo, bisogna, sempre col ascoltare. Wombat bisogna stare sul pezzo. Anche interessanti novità che ci saranno a breve. E che quindi diciamo di rimanere collegati sempre su Radio Wombat e su Fuoco alle Polveri tutti i lunedì alle 16:30 per nuove interviste, per nuovi pezzi, per nuove cazzate, per nozioni inutili, piccoli brividi, ma anche proprio per novità sulla radio che Certo, che a breve aggiorneremo. Bellerrimo. Ci sentiamo settimana prossima. Ringraziamo tutti ancora. Grazie a tutti davvero. Grazie a tutti. Grazie regia. Ciao. Ciao amici. Wombat Wombat. Fuoco alle polveri. Go hell and Paul Berry. Radio Wombat. This is Radio Wombat. Adesso basta! Chi spara? Chi è quel maledetto? Ho ordinato di non sparare! Vengano